Tutti ormai lo chiamavano Don Ciccio. Era il dottor Francesco Ingravallo, comandato alla mobile, uno dei più giovani e non si sa perché invidiati funzionari della sezione investigativa. Ubiquo ai casi, onnipresente sugli affari tenebrosi, di statura media, piuttosto rotondo nella persona, o forse un po' tozzo, di capelli neri e folti e cresputi che gli venivano fuori dalla metà della fronte, quasi a riparargli i due bernoccoli metafisici dal bel sole d'Italia. Aveva un'aria un po' assonnata, un'andatura greve, dinoccolata, un fare un po' tonto, come de persona che combatte con una laboriosa digestione. Vestito come il magro onorario statale gli permetteva, o con una o due macchioline d'olio sul bavero, quasi impercettibili però, quasi un ricordo della collina molisana. Una certa praticaccia del mondo, del nostro mondo detto latino, benché giovine, doveva di certo avercela, una certa conoscenza degli uomini e anche delle donne. Nella sua saggezza e nella sua povertà molisana, il dottor Ingravallo, che pareva vivere di silenzio e di sonno, interrompeva talora codesto sonno e silenzio per enunciare qualche teorica idea, idea generale, si intende, sui casi degli uomini e delle donne. A prima vista, cioè al primo udirle, sembravano banalità, ma non erano banalità. Sosteneva, fra l'altro, che le inopinate catastrofi non sono mai la conseguenza o l'effetto che dir si voglia di un unico motivo, di una causa al singolare, ma sono come un vortice, un punto di depressione ciclonica nella conoscenza del mondo, verso cui hanno cospirato tutta una molteplicità di causali convergenti. Diceva anche nodo, o groviglio, o garbuglio, o gnommero, che alla romana vuol dire gomitolo. Quando mi chiamano, già se mi chiamano a me, puoi star sicuro che non vuoi. Qualche gnommero da sberretta, diceva, contaminando napoletano, molisano e italiano. Per il 20 febbraio, domenica, Sant'Eleuterio, i Balducci lo avevano invitato a pranzo alle 13:30, se le è comodo. L'invito, come l'altra volta, gli era fatto per telefono due giorni avanti con una chiamata dall'esterno al Collegio Romano, cioè a Santo Stefano del Cacco. Prima una voce melodiosa gli aveva parlato: la signora, sono Liliana Balducci. Poi era subentrato il marito, il Balducci uomo. Don Ciccio, dopo aver santificato la festa dal barbiere, portò una bottiglia d'olio alla signora. Al suo entrare, la Lulù, a canina pechinese, un gomitolo, aveva abbaiato con molta stizza e poi, lasciati i ringhi, gli aveva fiutato lungo le scarpe. La vitalità di questi mostriciattoli è una cosa incredibile. Verrebbe voglia di accarezzarli e poi di acciaccarli. A tavola erano quattro: lui, Don Ciccio, i coniugi e la nipote. La signora era ricca, ricchissima, dicevano. Suo marito stava bene, viaggiava 13 mesi l'anno, ma lei era ancora più ricca per conto suo. Cioè, in quel palazzo del 219 non c'è stavano che signori grossi, qualche famiglia del Generone, ma soprattutto signori novi de commercio, de quelli che un po' danno avanti gli chiamavano ancora pescicani. E il palazzo poi, la gente del popolo, lo chiamavano il palazzo dell'oro, perché tutto il casamento, il sinartetto, era come imbottito di quel metallo. Drento poi ci stavano due scale, A e B, con 6 piani e con 12 inquilini cada una, 2 per piano. Durante il pranzo, fu lieto, domenicale, tranquillo. Il dottor Ingravallo mangiò e beve con misura, come al solito, ma di buon appetito e a buon senso. Durante il pranzo, la signora Liliana, di quando in quando, si sarebbe creduto sospirasse, In Gravallo notò che due o tre volte a mezza voce aveva detto «Ma! Chi dice ma, cuor contento non ha?» E poi qualche mezza parola col malduto Balducci stesso, quel maritone rubizzo tutto affari che ora cianciava così fragorosamente. Aveva creduto di intuire «Non c'hanno figli!» Conosceva il Balducci, il marito, come cacciatore, e in cuor suo gli rimproverava certa mascolina grossezza, certe fanfaronate, certe risate un po' troppo clamorose per quanto bonarie, certo egoismo o egotismo, un po' da gallinaccio. Se, con una creatura simile, si sarebbe detto a voler fantasticare che egli, il marito, il Balducci, non avesse valutato, non avesse penetrato tutta la bellezza di lei, quanto vi era di lei di nobile, di recondito. E allora i figli non erano arrivati. Il campanello trillò, la Lulù, il pechinese, fece il diavolo a quattro e dopo qualche parlottio di là entrò in sala un giovane vestito di un completo grigio di taglio non inelegante. Fu fatto sedere. «Un'altra tazza per signorino Giuliano!» disse la signora. Subito fu presentato e si presentò da sé. Vardarena, dottor Ingravallo, bofonchiò Ingravallo, spiccicandosi appena dalla sedia e stringendo appena e quasi a malincuore la mano che quello gli porgeva. Il dottor Vardarena, fece Liliana alla presa col caffè. Cugino di mia moglie, spiegò il marito, Balducci, rubizzo. C'erano, duole dirlo, in Don Ciccio una certa freddezza, come un'astiosa gelosia verso i giovani, specie verso i bei giovani, e tanto più i figli dei ricchi. Non sapeva perché, ma gli parve, o si figurò, che il giovane fosse uno di quelli che vogliono arrivare a tutti i costi. Anche lui di quelli piuttosto attaccati, cioè sedotti all'idea degli papabraschi, che del resto sa un bel dire, ma fanno copo un po' a tutti. Ingravallo fu colto allora da un'idea strana, come avesse bevuto un veleno. Forse era il vino secco del pranzo. Ma gli venne l'idea che il cugino corteggiasse la signora Liliana per... per averne favorite denaro. E questo lo mise in furore. Un furore segreto e dissimulato, un dubbio naturalmente, un dubbio perfido, però, che gli faceva addolorare le tempie. Un dubbio dei più ingravalleschi, dei più donciciani. La signora Liliana, con qualche sospiro maltrattenuto, sotto le trasvolanti nubi di tristezza, era una desiderabile donna. Tutti ne coglievano l'immagine per via, all'imbrunire, in quel primo abbandono della notte romana, che è così gremito di sogni, rincasando, ecco dai cantoni dei palazzi e dei marciapiedi, le fiorivano incontro omaggi, o singoli o collettivi, di sguardi, lampi e lucide occhiate giovanili. Un sussurro allora la sfiorava come un'appassionata mormorazione della sera. Donna dal timbro dolce e profondo, con una pelle stupenda, assorta a volte in un suo sogno, con un viluppo di bei capelli castani che le irrompevano dalla fronte, vestiva in modo ammirevole. Aveva occhi ardenti, soccorrevoli quasi, in una luce di malinconica fraternità. All'annuncio c'è il signorino Giuliano, gli pareva all'Ingravallo che ella avesse come trasalito o arrossito anche di un rossore sottocutaneo impercettibilmente. E arrivò giovedì. Magnifica giornata. E quella mattina di giovedì Ingravallo si poté concedere finalmente una scappata a Marino. Ah, Era una giornata meravigliosa, di quelle così splendidamente romane che perfino uno statale di ottavo grado, ma vicino a Zompanner VII, beh, pure quello si sente arricciasse nel cuore un non so che, un qualche cosa che rassomiglia alla felicità. Senza malinconia, vivere senza più gelosia. Senza rimpianto. Gli pareva davvero di inalare ambrosia col naso, de beve laggiù nei bormoni, un sole dorato sul travertino e sul peperino d'ogni facciata di chiesa, sul colmo d'ogni colonnetta che già gli volavano intorno ai muschi, eh? E poi lui si era già messo in testa tutto il programma. Ah, Marino, altro che quell'ambrosia ci sta. Alla grotta del Sor Pippo c'è stava un bianco marvaggio, un vigliacchetto di 4 anni, eh? Erano le 11 del 17 di marzo e il dottor Ingravallo a via d'Azeglio aveva già un piede sul predellino del tram e teneva già con la mano destra il poggiamano d'ottone quando il Porchettini, detto Sgranfia, trafelato, gli sopravvenne. Dottor Ingravallo! Dottor Ingravallo! E a voi? E che sta succedendo? Dottor Ingravallo, senta! Mi manda il commissario capo! Abbassò ancora di più la voce. A via Merulana è successo un orrore. Stamattina presto hanno telefonato che erano le 10.30, lei era appena uscito, il dottor Fumi lo cercava. Trattanto mi hanno mandato subito a vedere con 2 agenti e credevo quasi di trovarlo là e poi ha mandato a casa sua a cercarlo. E che è stato? E lei ce lo sa già. E che già sapì? Me ne lleva spas. Hanno tagliato la gola. Non mi scusi. So che lei è un po' parente. Ma parente di chi? Fece Ingravallo accigliandosi, come a voler respingere ogni propinquità con chi fosse. Volevo dire amico. Amico, amico, ma amiche e chi? E raccolte a tulipano le 5 dita della mano destra, altalenò quel fiore nella ipotepose digito interrogativa, tanto in uso presso gli appuli. Si è trovata la signora. La signora Balducci. La signora Balducci. Ingravallo impallidì. Afferrò il Porchettini per il braccio. Ma tu sei pazza! E glielo strinse forte che allo Sgranfia parve glielo stridolasse una morsa d'una qualche macchina. E sor dottor l'ha trovata suo cugino, il dottor Vallarena, Vardassena, ma che ne so. Hanno telefonato subito in questura. Ma è là pure lui, a via Merulana. Dice che era andato a trovarla per salutarla, perché ad Anna a Genova, salutarla a quell'ora, dico io, e dice che l'ha trovata stesa a terra in un lago di sangue, madonna mia, dove l'avevamo trovata pure noi, sul parquet, in camera da pranzo, stesa di traverso, con le sontane tirate su, come chi dicesse in mutanne, il capo rigirato un tantino, qua gola tutta segata, tutta tagliata da una parte, ma vedesse che taglio, dottor, e che faccia, che a momenti svengo, un taglio, che mano, il macellaro, un orrore e 2 occhi che guardavano fisso, fisso la credenza, una faccia stirata, stirata, bianca da per impanno risciacquato, come se avesse fatto una gran fatica a morire. Ingravallo, pallido, emise un mugulo strano, un sospiro o un lamento da ferito, come se sentisse male pure lui, un cinghiale con una palla in corpo. La signora Balducci, Liliana, balbettò, si tolse il cappello e sulla fronte, in margine al nero cresputo dei capelli, un allinearsi di gocciole, d'un sudore improvviso, come un diadema di terrore, di dolore. Il volto, per solito olivastro, lo aveva infarinato l'angoscia. Andiamo via. Era madido, pareva esausto. Giunti a via Merulana, la folla. Davanti il portone, il nero della folla con la sua corona de rote de bicicletta. Fate passare la polizia! Ognuno si scostò e il portone era chiuso. Piantonava un agente con 2 pizzardoni e 2 carabinieri. Le donne li interrogavano, loro dicevano alle donne, fate largo, e le donne volevano sapere. tre o quattro de già si sentì che parlavano dei numeri. Erano d'accordo per 17, ma discutevano pure sul 13. I due salirono in casa Balducci, l'ospitale casa che in Gravallo conosceva, se vuol dire, col cuore. Sulle scale un parlottare di ombre, un bimbo piagneva, in anticamera nulla di particolare, il solito odore di cera, l'ordine abituale, eccetto che due agenti, muti, attendevano disposizioni. Sopra una seggiola, un giovane, col capo tra le mani, s'alzò. Era il dottor Vardarena. Nulla di notevole si sarebbe detto, ma entrati appena in anticamera da pranzo, lì sul parquet, tra la tavola e la credenza, a terra, quella cosa orribile. Il corpo della povera signora giaceva in una posizione infame, supino, con la gonna della lana grigia e un sottogonna bianca buttata all'indietro, fin quasi al petto, come se qualcuno avesse voluto scoprire il candore affascinante di quel dessuso o indagarne lo stato di nettezza. Aveva mutande bianche, di maglia appunto gentile, sottilissimo, che terminavano a metà coscia in una delicata orlatura. Tra l'orlatura e le calze, che erano in una lieve luce di seta, denudò se stessa la bianchezza estrema della carne, di un pallore da clorosi. Quelle due cosce un po' aperte già si adeguavano al gelo del sarcofago e delle taciturne dimore. L'esatto officiare del punto a maglia, per lo sguardo di quei frequentatori di domestiche, modellò inutilmente le stanche proposte di una voluttà il cui ardore, il cui fremito pareva essersi appena esalato dalla dolce mollezza del monte, da quella riga, il segno carnale del mistero, quella che Michelangelo aveva creduto opportuno di dover omettere. «Pignolerie! Lascia verde!» pensò in Gravallo. Un profondo, un terribile taglio rosso le apriva la gola ferocemente. Aveva preso per metà il collo, dal davanti verso destra, sfrangiato ai due margini, come da un reiterarsi dei colpi, lama o punta. Un orrore da non potesse vedere. Palesava come delle filacce rosse all'interno, tra quella spumaccia nera del sangue già ragionato a momenti, che era un pasticcio, con delle bollicine rimaste a mezzo, come dei maccheroncini color rosso o rosa. «La trachea», mormorò in Gravallo chinandosi, «la carotide, la jugulare, Dio mio!» Il sangue aveva impiastrato tutto il collo, er davanti dalla camicetta, una manica e la mano. Una spaventevole colatura d'un rosso nero s'era accigliata intorno al pavimento e sulla camicia e tra i due seni. Ne era tinto anche l'orlo della gonna, il lembo rovescio di quella veste di lana buttata su, e pareva se dovesse raggrinzare da un momento all'altro doveva di certo risultarne un coagulato tutto appiccicoso come un sanguinaccio. Il naso e la faccia, così abbandonata e un po' rigirata da una parte, come di chi non ce la fa più a combattere. La faccia rassegnata alla volontà della morte ora appariva offesa da sgraffiature, da unghiate, come ci avesse preso gusto quel boia a volerla sfregiare a quel modo. Assassino! Gli occhi s'erano affissati orrendamente, ma guarda che poi, a guarda che, guardavano, ma che in direzione non si sapeva di che, verso la credenza grande o in cima al soffitto. Le mutandine non erano insanguinate, lasciavano scoperti i due tratti delle cosce, come due anelli di pelle fino alle calze di un biondo lucido, eh? La solcatura del sesso pareva d'essere a Ostia, d'estate o a Forte dei Marmi, de Viareggio, quando so sdraiate sull'arena a Cocese, che te fanno vedere tutto quello che donno. In Gravallo, a capo scoperto, pareva lo spettro di se stesso. Domandò: avete mossa? No, dottor, gli risposero. Ma avete toccata? No, no. Del sangue era stato portato intorno dai tacchi, dalle suole di qualcuno, sul parquet di legno, che poi si vedeva bene che ci avevano messo dentro i piedi, in quel pantano di spavento. In gravallo si irritò. Ma siete una massa dei burini! Minacciò. Brutti scaprari della sgurgola. Uscì nel corridoio e in anticamera si rivolse al dottor Valdarena, accasciato su di una sedia, di quelle di cucina, e col porchettini che c'era l'aria di stargli attorno come infietto la madre. Com'è che vi trovate qui? Dottore, fece il Valdarena con voce seria, pagata, ma tuttavia implorante. Ero venuto a salutare mia cugina. Ah, povera Liliana. Voleva assolutamente vedermi prima che partissi. E parto dopodomani per Genova. Ho già distretto la camera. Per Genova? Esclamò Don Ciccio, sovrappensiero. Ma quale camera? La camera dove sto di casa, via Nicotera 21. È lui che è capitato per primo, fece un agente. È stato il primo a entrare qua, confermò il porchettini. E poi hanno telefonato in questura. Ero salito. L'uscio era scostato appena. Avevo domandato permesso? Permesso? Nessuno rispondeva. La portinaia dov'era? La portinaia non l'avete vista? E lei vi ha visto? No, no, non credo. La portiera, la Petacchioni, rientrò e confermò. Era sulla scala B per le pulizie del giorno. Fatemi vedere le mani, disse in gravallo al dottor Valdarena. Venite su taluccio. Le mani del giovane apparvero pulitissime. Una pelle bianca, sana, calda, morbidamente venate. Un anello alla cavaliera d'oro giallo con uno stupendo diaspro e nel diaspro la cifra, Ma il polsino destro della camicia tinto de sangue agli angoli, dall'oro del bottone in fuori. Ah, e sto sangue! Fece in gravallo storgendo la bocca nel ribrezzo, senza tuttavia lasciare quella mano che stringeva per le punte delle dita. Giuliano Valdarena impallidì. Signor commissario, non mi creda. Io confesso, ho toccato il viso alla povera Liliana. Mi sono chinato su di lei, poi ho messo un ginocchio a terra. Ho voluto farle come una carezza. Era fredda. Dirle addio. Non ho potuto trattenermi. Volevo scenderle giù quella gonna, povera cugina mia, in che stato. Ma non ci ho avuto il coraggio di toccarla una seconda volta, era fredda. No, no, no, no. E poi... E poi che cosa? Fece in gravallo. E poi ho pensato, Nico, ho capito, che io non c'avevo il diritto di toccare nulla, no? Soccorso fuori, ho chiamato, ho suonato, qui de faccia. Chi è? Dicevano. Era una voce di donna, ma non volevano aprire. Avevano ragione. E allora ho gridato di nuovo e sono usciti degli altri, sono saliti. È venuta la gente, da che ne so, hanno voluto pure vedere loro, strillavano e abbiamo telefonato in questura. Ma io che dovevo fare? In gravallo lo affissò duramente. Lasciò andare la mano. Una smorfia di ribrezzo persisteva nel suo volto, una lieve contrazione del naso e da un lato solo. Rifletté un momento, persistendo a guardarlo in faccia. Ma com'è che siete così calmo? Calmo? Io non so piangere. So anni che non ho avuto occasione di piangere. Nemmeno quando mia madre ha risposato e se n'è andata a Torino. L'angolo del porsino? Deve aver sfiorato la ferita, il collo, ma era inevitabile, che con tutto quel sangue? Liliana, povera, disperata, splendida era. E gli altri tacevano. Don Ciccio lo scrutava duro. Una carezza, Gesù mio, un bacio, ma quello no, non mi sentivo la forza, perché era fredda. In gravallo si chinò, gli guardò i pantaloni a metà gamba. Ai ginocchi, sul sinistro, una lieve traccia di polvere. Dov'è che vi siete inginocchiato? Con che ginocchio? Boh, no. dalla parte del buffet, quello piccolo, come ci facci pensare? Col sinistro, sì, per non annacce dentro, ben tutto quel sangue. E Don Ciccio lo affissò carinamente. Dottore, badate, voi dovete dirci le cose come stanno. Lavorare di fantasia in questo momento, in questo posto, lo capite bene anche voi. Non è il caso. Dottore, ma che vuole pensare? Come stanno le cose, io sto dicendo. Dottore, e se facci una ragione? E come la già fa una ragione? Ditemi, raccontatemi, sentiamo. Voi siete che dovete orientare le nostre indagini, per il vostro meglio. Riferirono ad Ingravallo che la Gina, la cosiddetta pupilla della signora Liliana, era tornata dal Sacro Monte in quel momento. Il giovedì rientrava a Luna per la colazione. Il Balducci, il marito della signora Liliana, doveva arrivare a Milano l'indomani. Ingravallo parlò con la giovinetta piangente, ma non ne cavò nulla. Dopo il caffè latte, prima delle 8, aveva salutata quella che lei chiamava mamma, ne aveva avuto il solito bacio del mattino con la solita domanda: la sai la lezione? Le ha detto di sì ed era uscita. Le indagini proseguirono in loco nel primo pomeriggio, a portone chiuso, a uscio chiuso, con rinforzo d'agenti. Gli inquilini e la portiera stessa furono pregati di non sostare sulle scale per modo di lasciare libero corso alle investigazioni. La portiera, la piccola Gina, il dottor Valdarena furono alternamente e contemporaneamente sentiti. Ma il velo del più fitto mistero incombeva sul delitto. Fu appurato che nessuno degli inquilini del casamento poteva fornire indicazioni quali che fossero circa l'autore o gli autori del misfatto. Nessuno aveva incontrato persone sulle scale e neppure il Valdarena non l'aveva visto nessuno. Costui era dottore in scienze economiche, e Ingravallo ce lo sapeva bene, e impiegato allo Standard Oil. Per qualche tempo aveva prestato servizio a Vado Ligure e poi a Roma. Adesso era in procinto di trasferirsi a Genova, oltre che di sposarsi. Fidanzato a una ragazza di Genova, una bella moretta, della quale esibì la fotografia, certa Lantini Renata. De ottima famiglia, naturalmente. Secondo l'ottima famiglia, lui era innamoratissimo. Il dottor Valdarena, il signorino Giuliano, il marito di Liliana, ne aveva parlato a Ingravallo, con qualche allusiva bonaria all'età fervida, oltre che alla carenza di un po' dei papabraschi e che gli rimanessero una qualche volta appiccicati alle dita, almeno in parte, perché gli svolavano via sistematicamente come farfalle dalle dita di un apollo, di quelli che ci sono in giardino, de marmo. E lui l'aveva definito un bel ragazzo, il Balducci, e per questo non c'era bisogno di referenze. Laureato in scienze economiche a pieni voti e con lode, ma sempre un tantinello a secco. Come capita il più delle volte a quelli che vanno a insegnare all'altri come si fa fare l'economia. Un bel ragazzo, il signorino Giuliano. Piuttosto fortunato con le donne, che lo perseguitavano a sciami, a volo radente, e gli precipitavano poi addosso tutte insieme e impicchiata come tante mosche sul miele. Ah, lui ci sapeva pure anco fare. C'aveva un suo modo così naturale, così strano, e al medesimo tempo che le incantava con niente. Dava a trascurarle o di sentirsene magari annoiato. Faceva il maschietto tosto, o il tu mi stufi, o il superborioso, o il signorino di casa fa de famiglia certa del generone per via degli banchi vecchi, o l'uomo d'affari che in un certo tempo ti sta a discorre, secondo come gli girava intonato al vestito che ci aveva addosso, come gli veniva l'ispirazione del momento, secondo che ci aveva le sigarette col bocchino d'oro, o se non ce l'aveva per niente, o se le aveva appena comprate, ma quelle nazionali, di quelle che puzzano. Giocava a far cocco, altre volte bizzosa come una banderiola, sicché allora le trascurava, le sore frasche. Ed era allora proprio che loro s'ammattivano. lui se concedeva dopo un lungo reluttare o dopo interminato anelare e basire della vittima, strascicandone l'estuoso abbandono o sfibrandone la indocilità renitente mediante un'erogazione di pseudosintomi, in realtà suggerimenti, alternati a contrasto, a sì, no, mamma, non mamma, te voglio, non te voglio, e comunque poi alle predestinate se concedeva, lasciandosi cadere a piomba alla maniera del nibbio sulla più contumace di tutto il gallinaio, quasi a punirla o a rimaritarla. E in tal caso la gratitudine della magnificata poteva salire alle stelle e la paura, o fosse magari la speranza, del bis. In Gravallo c'era da aspettarselo. Prima ancora dell'arrivo del giudice, dato come si presentavano i fatti, decise per il fermo del Val d'Arena. Solo più tardi, il mattino dopo, la procura del re tramutò il fermo in arresto provvisorio. Rinnovate inchieste e puntuali contestazioni autoptiche, tanto del capoccione di Don Ciccio che del maresciallo Valiani, non significarono granché, cioè qualche evidenza di furto, sì, ma nessun'arma fu rinvenuta. Però diversi stiveretti e cassetti a guardarci dentro, se capiva che qualche cosa avevano da sapere, eh? Armi no, e nessuna indicazione, eccetto che le gocce rosse per terra e quel sangue trascinato dai tacchi. Presso lo sciacquatore, in cucina, il pavimento a mattonelle era bagnato d'acqua. Un coltello affilatissimo, ma del tutto assente, era il più indiziato d'aver potuto lavorare a quel modo. Le gocce, anziché da mano assassina, parevano gocciolate giù da un coltello. Lui, de certo, aveva colpito all'improvviso, ma insistito poi nella gola, nella trachea, con afferrata sicurezza. La colluttazione, seppure era da credervi, doveva essere stata nient'altro che un misero conato da parte della vittima. Uno sguardo atterrito e subitamente implorante, l'abbozzo di un gesto, una mano levata appena, bianca, a stornare l'orrore, a tentare di stringere il polso villoso, la mano implacabile e nera dell'omicida. La sinistra, che già le adunghiava il volto e la rovesciava il capo a ottenere la gola più libera, interamente nuda e indifesa contro il balenare di una lama che la destra aveva già estratto a voler ferire, a voler uccidere. Una cerea mano si allentava e ricadeva quando Liliana aveva già il coltello dentro il respiro, che la lacerava, le straziava la trachea e il sangue, a tirar fiato, le annava giù nel polmone e il fiato le gorgogliava fora in quella tosse, in quello strazio, da pare tante bolle di sapone rosse. E la carotide, la jugulare, buttavano come due pompe di pozzo, puff, puff, a mezzo metro di distanza. Il fiato, l'ultimo, di traverso, a bolle, in quella porpora atroce della sua vita. E si sentiva il sangue nella bocca e vedeva quegli occhi, non più d'uomo, sulla piaga che era ancora da lavorare, un colpo ancora, e gli occhi della belva infinita, le mani bianchissime, con quelle tenere unghie color pervinca, ora non prestavano tagli, non aveva potuto, non aveva osato afferrare il tagliente o fermare la determinazione del carnefice. Si era conceduta al carnefice. A Don Ciccio appareva che ogni forma del mondo si ottenebrasse, ogni gentilezza del mondo. Sedette affranto in anticamera, in attesa del giudice. Poi riandò da là e guardò come per un commiato la povera creatura sopra cui stavano a disputare sottovoce i fotografi, badando di non insudiciarsi pure loro o le loro trappole, con lampade, fili, treppiedi, macchinoni a soffietto. Avevano già scovato due prese di dietro a due portrone, avevano già fatto saltare la varvola due o tre volte, una delle tre varvole dell'appartamento, e si decisero per il magnesio. Aggeggiavano come due angeloni sinistri pieni di voglia di farla franca, arde sopra di quella terrificante stanchezza. Un freddo, povero relitto ora, quella cattiveria del mondo, le loro manovre dei mosconi, quei fili, quello stringe li diaframmi, quel mettersi d'accordo sottovoce per vedere non fargli via fuoco a tutta la baracca, quello erano il primo ronzare dell'eternità sui sensi opachi di lei, di quel corpo di donna che non ci aveva più pudore né memoria. Operavano sulla vittima senza riguardarne la pena e senza poterne riscattare l'ignominia. Dei brividi correvano lungo la schiena d'ingravallo. Cercò di riflettere, ma sudava. Levò meccanicamente di tasca il biglietto dalla tasca destra della giacca dove lo aveva riposto la mattina e dove stava ancora dopo tanta pena del giorno, con mezza sigaretta e qualche briciola. Il biglietto allungato, verdolino azzurro, del tramvai dei Castelli, Corbugo nel 13. Lo voltò, lo rivoltò, passò in anticamera, nella camera matrimoniale, e si buttò a sede, sfinito. La mattina dopo, i giornali diedero notizia del fatto. Era venerdì. I cronisti e il telefono avevano rotto l'anima tutta la sera. Tanto a via Merulana che giù a Santa Stefane, sicché la mattina erano subisso. «Orribile delitto a via Merulana!» gridavano gli strilloni con i pacchi fra i ginocchi della gente. Fino alle 11:15. Nella cronaca, al centro, un titolo in neretto su due colonne, ma poi sobrio e alquanto distaccato il referto, una colonnina asciutta asciutta, 10 righe nella svolta. Le indagini proseguono attivissime. E qualche altra parola per contentino. De Bretta marca neo-italica. Ah, erano passati i tempi belli che per un pizzico arculo mandolino de una serva a Piazza Vittorio c'era un brodo lungo de mezza pagina. La moralizzazione dell'urbe e di tutta l'Italia insieme e il concetto di una maggiore austerità civile si apriva allora la strada. Se può dire che procedeva a grandi passi, delitti e storie sporche erano scappati per sempre dalla terra d'Ausonia come un brutto insugno che se la squaglia. Furti, cortellate, puttanate, ruffianate, rapina, cocaina, ma che ve pare? La divina terra d'Ausonia manco si ricordava più che roba fosse. Vigeva ora il vigor novo del mascellone, testa de morto in bombetta, poi Niro col fez e col pennacchio, la nuova legge delle verghe a fascio. Ma che? Pensa che ci fossero dei ladri a Roma, ora, con quel gallinaccio con la faccia fanatica a Palazzo Chigi, con Federzone che voleva carcerare per forza tutti gli storcioni del Lungotevere, tutti i cani in fregola della Lungara, col Papa Milanese e con l'anno santo dei 2 anni prima, con gli sposi novelli e con i polli novelli a scarpinare per tutta Roma. No! Il Vardarena, al collegio romano, era stato sottoposto a ripetuti interrogatori. Gli alibi da lui prodotti, ufficio, fattorino d'ufficio, si palesarono validi fino alle 9:20 e non oltre. Diceva di essere andato in giro per la città, ma sì, ma in giro dove? Da chi? Clienti? Donne? Tabaccaio? 2 o 3 volte a Rossì, come una magia. Cioè, aveva messo avanti anche il parrucchiere, ma si era subito ritirato dall'affermazione. No, c'era stato il giorno prima. Un'altra circostanza emerse nel frattempo da minuziosa perquisizione ordinata e operata presso il Valdarena che abitava in Prati, in una bella camera studio a Via Nicotera. Sul marmo del cassettone fu rinvenuto un ritratto di Liliana, dentro nel primo cassetto un anello d'oro da uomo con brillante e una catena d'oro da orologio assai greve, parecchio lunga, e che se una catena di nave, fece in gravallo. Nella scrivania piccola vicino al barcone il maresciallo di Pietrantonio, coadiuvato dall'agente scelto Paolillo, ritrovò 10.000 lire in fogli da 1.000 novi. In gravallo sottopose il Valdarena, già udito in quel giorno, a un ennesimo interrogatorio. Alle 7:30 aveva acceso a rincalzo una lampadina speciale che discendeva sul suo tavolo. Gli mostrò a un tratto, senza preavviso, i corpi del reato, e cioè la catena, l'anello col brillante, i 10 fogli da 1.000, a non voler includere tra i corpi la fotografia di Liliana. Il Valdarena, al vedere quel denaro e quegli oggetti, insieme al ritratto di Liliana, arrossì de colpo. Signor commissario, gridò, è inutile, io continui a tacere. O per rispetto umano, o per riguardo a una morta, a una povera creatura assassinata, o per vergogna di me stesso. Liliana, la povera cugina mia, sì, mi voleva bene. Ecco tutto. No, no. Non mi amava forse, no, dico nel senso in cui mi avrebbe amato un'altra donna al suo posto, ma Liliana, ma se la sua coscienza di donna glielo avesse conceduto, la religione in cui era nata e cresciuta, ma io so certo che lei si sarebbe innamorata di me, che mi avrebbe amato pazzamente. In gravallo impallidì, come tutte. Il Valdarena non sembrò raccogliere. Il grande sogno della vita per lei era di congiungersi a un uomo, o magari anche un serpente, ma che le potesse dare la creatura sospirata, la sua creatura, il pupo, atteso poi invano per tanto tempo nel pianto. Piangeva, pregava, e quando cominciò a capire che gli anni non li teneva più nessuno, addio. Povera Liliana, nella sua esaltazione, non voleva riconoscere l'incapacità propria, non ammetteva, no. Lei viveva di quella fantasia, si può dire, che con un altro, cioè con un altro, perché in sogno, lei dentro le sue viscere le pareva di credere, le pareva di capire che quell'altro, quell'uomo, avrei potuto essere io. Ah, fece Don Ciccio, congratulazioni, sentitissimo. No, signor commissario. Tante volte Liliana mi ha parlato, mi ha detto ogni volta che aveva amato Remo, suo marito, sinceramente. Cioè, un po' da oca, poverina, in gravallo in cuor suo non poté non concedere. Dico, è figlia unica, senza madre, senza esperienza. Lo aveva amato dal primo giorno che lo aveva visto. E lo amava tuttora, lo stimava, ma per nulla al mondo avrebbe potuto pensare di tradirlo. Ma il vedersi passare gli anni a quel modo, gli anni belli, senza nemmeno la speranza di un frutto dell'amore, era per lei come una delusione torturante. Si sentiva umiliata, come si sentono tutte quando gli va male il pupo. Più ancora che il dispiacere, è il dispetto a pensare che le altre donne trionfino e loro no. La più amara di tutte le delusioni della loro vita. E così per lei il mondo non fu altro che noia, non fu altro che un gran piangere, un pianto che non le dava nessun conforto. Noia, noia e noia. Un pantano di noia da diventa matti. E noia, noia, noia. E a catena co brillante fece in gravallo. Ma veniamo ai fatti, dottor. Che mi pare che stiamo perdendo odium. La stamme, sì. Stivoli romantici. Parlamo un po' che sta catena e camino. E presela d'un capo e la faceva altalenare sotto il naso e lo guardava fermo negli occhi. Nero. Abbiamo letto il testamento della signora Liliana. Pace all'anima. Povera che la femmina. E li lasciava a voi. E depose la catena e prese di sul tavolo e principiò a soppesare nel palmo l'anello. Giuliano levò la destra, che apparve bianca, vivida e appena tracciata d'azzurro. Ah, le flessibili vene dell'adolescenza, mostrò all'anulare il magnifico diaspro. Voleva accompagnarlo a questo, disse. Lei voleva che io sposassi e che facessi un pupo. L'avrai di sicuro, mi diceva ogni volta e piangeva. Quando le dissi che sposavo, e sulle prime non ci voleva mica crede, che sarei andato a sta Genova, appena le mostrai la fotografia di Renata, e non posso dire che fu gelosa come sarebbe stata un'altra donna. Anzi, com'è bella, mi disse, un po' a denti stretti però. È bruna, non è vero? Bella fiola, va proprio bene per te che sei biondo come un angelo. Se mi si appiagne. Appena fu persuasa del matrimonio e che non era una storia, lei, dottò, e non ci crederà, mi pare di diventare matto, mi fece subito giurare, ma subito subito, che io avrei fatto subito un pupo, un Valdarenino. Un Valdarenuccio, diceva fra le lacrime, giura, ma caruccio, caruccio. Era impazzita, povera Liliana, una donna così a posto come lei, povera Lilianuccia nostra, lo avrebbe adottato lei, quello, perché la provvidenza a Renata e a me e a te, de creature, ce ne avrebbe date tante quanto ce ne pareva, perché il Signore è fatta sta maniera, diceva, a chi tutto e a chi niente. Appena sposi, tu fai un figlio e me devi da giurare che me lo dai a me. Insomma, che io lo facevo adottare come fosse figlio suo. E che me dai se te regalo il figlio mio? Scherzavo. Lei impallidì, si buttò a sede che pareva disperata. Anche in gravallo impallidì. Ne prese per le dita della mano destra. Guardò l'anello di mia madre, questo qui, e principiò a sfilarlo. Ma è da lasciare per qualche giorno, disse. Perché? Perché sì, devo accompagnarlo col regalo che te voglio fa. E io glielo lasciai. E la volta dopo che ci annievi, appena mi vide, mi restituì l'anello mio. Tieni, mi disse. E mi guardava. Tieni. Mi prese la mano e mi infilò sull'anulare quello lì, l'anello del nonno suo, e questo di mia madre, lo porto invece sul medio, come vede. Tieni, Giuliano, vada, è l'anello del nonno, del mio nonno, del tuo nonno, anzi bisnonno per te, che era bello, buono, forte, un uomo era, come te. E questa è la catena del nonno, e mi mostrò pure quella. In gravallo taceva, nero. E poi mi diceva, Liliana, Lilianucci, mi diceva, ma hai detto che devi andare a Genova? E prima di sposare hai da mettere casa. Oh, con i genovesi c'è poco da scherzare, lo so. Guarda! E guardai. No, dissi, Liliana, ma che fai? Non fa storie, disse, nomo come te, conosco i bisogni di nomo, le necessità di chi sposa, prendi intanto, prendi, te dico, prendi, e fammi sto piacere, te dico, non fammi faticare, che non c'ho fantasia di faticare, tieni. Io mi scansavo e non volevo, feci l'atto di scappare, misi di mezzo una sedia, tieni, e mi agguantò per in braccio e mi ficcò in tasca una busta, quella, le 10.000 lire. In gravallo non voleva crederci, non doveva, ma capiva, poco a poco, d'essere strascinato a credere quello che avrebbe creduto incredibile. Dottore, mi dia retta, implorò Giuliano. Forse era pazza. Non pe ve l'offende una morta, eh? Una povera morta, morta a quel modo. Ma ascolti, dottore, io per lei, io... L'avevo capito, io... Ma voi che cosa? Io per lei ero come il campione della razza. De sta bella razza dei Valdarena. No, non era una depravata. Era solo per quell'idea fissa del bambino, che era, me creda, come un'ossessione. E come spiegate la scomparsa del cofano di ferro con i tuoi libretti di risparmio? Il cofano? Io non ho mai neppure visto. La catena e l'anello con i 10.000 lire me l'ha dati lei. Me l'ha fatti via per forza. La busta è stata lei a volermela nasconde qua. E io volevo scappa via, corsi via. Me l'ha andata in sala da pranzo, me chiusi dentro per gioco. Trac, trac, trac. Era appena entrato che lei bussò. Allora le aprì, le annò alla credenza, al buffet. Ah! Alla sala da pranzo, vicino al buffet, proprio dove le avete tagliate la gola. La faccia di Ingravallo era bianca, i tuoi occhi erano quelli di un nemico. Tutti questi regali, tutti questi soldi, non vi pesano un po' sullo stomaco? No, fece l'incriminato con voce di implorazione. Fu lei, poverina, fu lei. Io non ci pensavo davvero a nascondere. Fu lei che mi disse: «Bada, Giuliano, deve rimanere tra di noi un nostro innocente segreto. Il segreto degli cugini, come nei romanzi, eh? Il segreto della bellezza. Non siamo belli noi due? Della felicità sperata e non avuta. Oh, che sto dicendo, Dio mio? Tu la felicità ce l'avrai. Beh, allora... Il segreto, fammici pensare, il segreto de due anime buone, eh? Che in un mondo un po' meglio di questo qua, beh, avrebbero formato altre anime. In questo, invece, così com'è. Dottore, avesse veduta in quel momento. In questo qua dove mannà, chi de qua, chi de là. Come delle foglie, quando che il vento è strappa. Dio mio, a che sciocchezze che mi vengono fuori dalla bocca proprio oggi, e begli auguri che te sto facendo, e tu che devi fare il pupo. Giuliano, perdonami. E piagneva, eh? E poi si mise a ride. Allegro, bello hai da fallo, diceva, e biondo, mi raccomando, come te quando eri pupo, che ridevi sempre, che volevi fare la pipì senza riportarti alla facciaccia di tutti. Manco alla nonna lo devi dire, manco a tua madre, a nessuno lo devi dire, giurami. E io giurai. Ingravallo sudò freddo. Tutta la storia, teoricamente, gli puzzava di favola, ma la voce del giovane, quegli accenti, quel gesto, erano la voce della verità. Il mondo delle cosiddette verità, filosofò Ingravallo, non è che un contesto de favole, de brutti sogni. Strizzò i denti, livido, radunò i corpi del reato e lo fece ricondurre in guardina.